Buonasera, sono Dario Zonta per i classici di Hollywood Party. Il cinema alla radio di questa sera è dedicato a Il nome della rosa. Nome della rosa, il film di Jean-Jacques Annaud del 1986, una coproduzione Italia-Germania-Francia, ovviamente tratto dall'omonimo romanzo pluripremiato di Umberto Eco, Il nome della rosa. Romanzo che uscì nel 1980, edito da Bompiani, il primo di sette romanzi di Umberto Eco, semiologo, professore di fama internazionale, ma nell'ambito della sua professione di saggista e di semiologo, che si mette alla prova in un romanzo articolato di 500 pagine che intreccia diversi generi. Di questo parleremo più tardi. Il film invece è del 1986 ed è un film che gode di una coproduzione importante e ha soprattutto nei reparti artistici dei nomi fondamentali, dei professionisti anch'essi di fama internazionale come Tonino De Licoli la fotografia, le scenografie che sono determinanti in questo film di Dante Ferretti e i costumi di Gabriella Pescucci. Ci sono poi altre professionalità straniere, tedesche, ma di fatto c'è un'anima e una matrice italiana che dona al film un carattere importante. Il film ebbe un importante successo, soprattutto in Italia e in Europa, un po' di meno negli Stati Uniti, ma l'eco dei tanti milioni di copie vendute dal romanzo ha favorito sicuramente anche questo adattamento, che ha dei caratteri specifici, che rinuncia a tante cose perché il romanzo è enorme, sono 500 pagine, ma dà una precisa indicazione al film. Il film inizia con un prologo, rifacendosi un po' al prologo del libro, che usa l'espediente del ritrovamento di un manoscritto, questo per quanto riguarda il libro. Invece il film inizia con una voce off che ci accompagna nelle pieghe di questo giallo, di questo thriller. La voce off è quella di Azzo Damerck, ovvero l'allievo di Guglielmo da Baskerville, il protagonista del film, interpretato da Sean Connery, mentre Azzo Damerck è interpretato da Christian Slater nel suo primo film, aveva solo 15 anni. Giunto al termine della mia vita di peccatore, mentre declino canuto insieme al mondo, mi accingo a lasciare su questa pergamena testimonianza degli eventi mirabili e tremendi a cui mi accadde di assistere in gioventù sul finire dell'anno del Signore 1327. E Dio mi conceda la grazia di essere testimone trasparente e cronista fedele di quanto allora avvenne in un luogo remoto a nord della penisola italiana, in una abbazia di cui è pietoso e saggio tacere anche il nome. Nei titoli di testa scopriamo il cast. Sean Connery veniva, ovviamente è l'agente 007 per eccellenza, aveva fatto diversi film ma veniva da un periodo un po' di fiacca per certi versi. E Umberto Eco non ha interagito e non ha interferito con il farsi del film, ma l'unica opposizione fiera che ha dimostrato era sulla scelta di Sean Connery, perché gli sembrava appunto uno 007 in pensione. In effetti è una scelta piuttosto ardita se ci pensate, però il risultato è ottimo. Sean Connery riesce a dare un'impronta, un carattere a Guglielmo da Baskerville che ancora ce lo ricordiamo. Altri attori, il secondo attore che viene citato stranamente, dico stranamente perché ha un ruolo importante nella drammaturgia del film ma non ha molte pose, è il personaggio di Bernardo Gui, l'inquisitore, interpretato da Murray Abraham. La ragazza è Valentina Vargas, l'unica presenza femminile nel film. Christian Slater, l'abbiamo detto, è Azzo Damerck, e poi c'è Michael Lonsdale che fa l'abate Abbone. Il film inizia con una visione di questo altopiano che porta all'abbazia non specificata nel romanzo, nel libro, nella parte settentrionale dell'Italia. L'abbazia è invece un sentiero montuoso nelle vicinanze del castello di Rocca Calascio in Abruzzo a Campo Imperatore ed è, devo dire, un inizio molto ampio, tra l'altro molto di respiro. Poi tutto il film invece è quasi claustrofobico, tutto dentro l'abbazia straordinariamente ricostruita da Dante Ferretti. Possa la mia mano non tremare mentre mi accingo a rivivere quegli eventi e a ricordare l'inquietudine sottile che opprimeva l'animo mio mentre mi appressavo a quelle mura. Perché oggi so che stavo rettamente interpretando gli indubitabili presagi iscritti in quella pietra. Glielo dovremmo dire? No, andrebbe a cercare nei posti sbagliati. Se venisse a saperlo, per suo conto. Voi sopravvalutate i suoi talenti, magnificentissimo. C'è solo un'autorità in grado di investigare tale materia, la Santa Inquisizione. Qual è la tua opinione, venerabile Iorio? Cari fratelli, io lascio tali cose mondane a uomini più vigorosi. Guglielmo da Baskerville osserva fuori dalla finestrella della cella il cimitero dell'abbazia e osserva una sepoltura fresca. La farà notare al magnificentissimo che arriva per salutare Guglielmo. Voi dovete essere molto stanco dopo questo lungo viaggio. No, non particolarmente. Non esitate a domandare se vi servisse qualcosa. No, grazie. Bene. Allora vi porgo il mio augurio di pace. Sono addolorato di apprendere che uno dei vostri fratelli è stato recentemente chiamato da Dio nella sua pace. Sì, una tragica perdita. Il fratello Adelmo era uno dei nostri miniatori migliori. Adelmo di Otranto? Lo conoscevate? No, conoscevo e ammiravo il suo lavoro. Le sue figure, così ricche di spirito, erano così provocatorie. Mi hanno detto che era molto giovane. Sì. Sì, era giovanissimo, è vero. Un incidente, senza dubbio. Sì, sì, come voi dite, un incidente. Ecco, veramente... Fratello Guglielmo, posso parlare liberamente con voi? Mi sembrate oltremodo ansioso di farlo. Il vostro arrivo nella nostra abbazia è l'esaudimento di una mia preghiera. Ecco, mi sono detto, un uomo che ha conoscenza sia dello spirito umano, sia delle astuzie del maligno. Purtroppo la morte di frate Adelmo ha causato una grande inquietudine spirituale tra il mio gregge. Questi è Adso, il mio novizio, figlio minore del barone di Melk. Vi prego, continuate. Si è trovato il corpo dopo un uragano orribilmente mutilato, precipitato contro una rupe ai piedi del torrione, sotto una finestra che, come posso dire... Che è stata trovata chiusa. Ve l'ha detto qualcuno? Se l'aveste trovata aperta, non avreste parlato di inquietudine, avreste concluso che era accaduto. Frate Guglielmo, la finestra non può essere aperta. Il vetro non era infranto e non vi è accesso alcuno al tetto soprastante. Ah, capisco. E non potendo fornire una spiegazione naturale, i vostri monaci sospettano la presenza di una forza soprannaturale tra queste mura. Sì, è per questo che mi ha bisogno il consiglio di un uomo acuto quale voi siete, frate Guglielmo. Acuto nello scoprire e prudente, se necessario, nel ricoprire di nuovo, prima dell'arrivo dei delegati papali. Certamente saprete che io non mi occupo più di certe materie. In verità esito a opprimervi con il peso del mio dilemma, tuttavia, se non mi riuscirà di tranquillizzare l'animo dei miei monaci... Non avrò altra scelta che ricorrere all'aiuto dell'Inquisizione. Siamo già entrati, evidentemente, nel clima di questa trama che noi definiremo gialla. Il nome della rosa, film e anche romanzo, è un film di genere. è un thriller, un giallo sostanzialmente. Poi nel romanzo più che nel film si intrecciano altri generi, altri elementi. Guglielmo da Baskerville e Azzo vanno nella chiesa dell'abbazia a salutare Ubertino da Casale, che è la guida spirituale dell'ordine francescano al quale loro appartengono. Ha scritto un trattato sulla povertà del clero, cosa che gli ha, come ci spiegherà Sean Connery, garantito l'inimicizia del papato. Molti lo venerano già come un santo, altri lo vorrebbero bruciato come eretico. Il suo trattato sulla povertà del clero non è la lettura preferita nei palazzi papali, così ora è costretto a vivere come un fuorilegge. Fratelli francescani, voi dovete lasciare questo posto immediatamente. Il demonio imperversa in questa abbazia. Ubertino, sono Guglielmo. Guglielmo da Baskerville. Guglielmo? No. No. Guglielmo è morto. Guglielmo, figlio mio, perdonami, ma avevamo perduto ogni traccia di te da tanto tempo. Ho fatto del mio meglio per essere dimenticato. Quando sapemmo delle tue traversie, ho pregato la Santa Vergine perché facesse un miracolo. E a quanto pare le tue preghiere sono state ascoltate. Questi è il mio novizio, Adso da Melken. Suo padre ha affidato a me la sua educazione e la sua custodia. Allora lo devi portare via immediatamente. Non hai saputo che il demonio precipita ragazzi avvenenti dalla finestra? C'era qualcosa di femminile, qualcosa di diabolico nel giovane che è morto. Aveva gli occhi di una fanciulla che cercasse il coito con il demonio. Guardati da questo luogo, Guglielmo. La bestia è ancora tra noi. Io la sento. È qui, adesso, proprio tra queste mura. Ho paura, Guglielmo, per te, per me, per l'esito che avrà questo dibattito. Oh, figliolo mio, in quali tempi viviamo? Ma non spaventiamo questo giovane amico. E Guglielmo e Azzo escono dalla chiesa, dall'incontro con Ubertino da Casale, e iniziano a analizzare, perlustrare, indagare Guglielmo evidentemente a questa attitudine, e si recano nei dintorni dell'abbazia e soprattutto nel luogo dove è stato trovato morto Adelmo da Otranto, il miniaturista trovato appunto morto ai piedi dell'abbazia. Mio caro Adso, non dobbiamo farci suggestionare dalle farneticanti vociferazioni sull'anticristo. Cerchiamo invece di usare la nostra intelligenza per tentare di risolvere questo affascinante enigma. Il mio maestro confidava nei filosofi greci, in Aristotele e nella sottigliezza della sua logica. Malauguratamente, i miei timori non erano affatto le vaghe fantasie di un'immaginazione giovanile eccitata. Una fine oscura per un così brillante miniatore. Vediamo. E se Adelmo non fosse caduto da quella torre lassù, ma da qualche altro posto, e poi il corpo fosse rotolato fin qui, Nessun demonio avrebbe desiderato di più. Sì, c'è altro sangue qui. Ecco da dove è caduto. Si è buttato. Adso, mi stai seguendo? Sì, si è buttato. Si è buttato. Voi intendete che si è suicidato? Sì. Perché uno dovrebbe arrampicarsi da su di notte durante un uragano? Non certo per ammirare il paesaggio. No, potrebbe essere stato assassinato, maestro. E poi l'assassino si sarebbe arrampicato fino lassù con il cadavere? Sarebbe stato molto più agevole buttarlo da quella feritoia, dove buttano gli avanzi ai poveri. No, no, mio caro Adso, è elementare. Suicidio. Voi pensate che questo sia un luogo abbandonato da Dio? Hai mai conosciuto un luogo dove Dio si possa trovare a suo agio? mio caro Azzo, è elementare. Allora, questa ovviamente è una battuta, è una delle tantissime citazioni presenti nel film, ma soprattutto nel romanzo di Umberto Eco, che si può anche definire per certi versi un romanzo postmoderno, perché sono talmente tanto le infiltrazioni, le citazioni, i riferimenti, anche il gioco che tutto questo comporta. Guglielmo da Baskerville si riferisce sin dal nome a Il mastino di Baskerville, che è uno dei più famosi racconti di Doyle, mentre Azzo è sicuramente descritto come il Watson di Sherlock Holmes. E tra l'altro Guglielmo da Baskerville usa un metodo di indagine che è quello tipico deduttivo, tra l'altro è un uomo da questo punto di vista un po' avanti nel suo tempo, in un contesto come quello dell'Italia medievale del 1300, in cui la deduzione e l'argomentazione erano un po' messe al bando, altri erano i criteri di interpretazione della realtà. Accadono nella prima notte all'abbazia una serie di eventi: un frate che si fustiga nella sua cella, chissà che cosa ha fatto, un altro frate che scopriremo chiamarsi Venanzio, bello e giovane, che si rifugia nella biblioteca per leggere un manoscritto e lo legge avidamente, sfogliando le pagine, leccandosi le dita e toccando il bordo estremo delle pagine. Nella stessa notte Guglielmo e Azio si confessano, parlano, Azio è preoccupato, sente il peso di questa atmosfera. E arriva poi l'alba. L'alba arriva con una notizia. Durante le laudi, Mattutini viene annunciata la morte di un altro frate, proprio di frate Venanzio, che viene trovato a testa in giù dentro una giara. Adesso rientriamo nel film, nel momento in cui Guglielmo da Baskerville analizza il corpo. Fratello Severino, hai avuto molte occasioni di usare l'arsenico? Sì, certo. Ed è un rimedio molto efficace per le turbe nervose, se preso nei suoi composti in piccole dosi. E se preso non in piccole dosi? La morte. Che cosa faceva Venanzio da voi? Era il nostro migliore traduttore dal greco. Credo che conoscesse quasi tutto Aristotele a memoria. Era in rapporti di amicizia con il bel miniatore Adelmo? Oh, sì, sì. Lavoravano insieme nello scriptorium. Sì, erano amici, ma in maniera fraterna, capisci? Non come... insomma, la carne può essere tentata secondo natura o contro natura. E loro non rientravano nel secondo caso, se capisci quel che voglio dire. Entra in scena un personaggio del film che non abbiamo citato nel cast, ma è un personaggio molto importante, quello di Salvatore, di questo frate gobbo che parla un linguaggio incredibile fatto di tante lingue: inglese, francese, lingue inventate, latino, greco, interpretato da Ron Perlman, famosissimo attore americano, quello con la faccia, con la mascella molto prominente, ha fatto Hellboy, ma ha fatto decine di personaggi. Pensate che la parte fu proposta a Franco Franchi, però lui si rifiutò perché voleva evitare la torsura dei capelli, ovvero questo taglio strano dei capelli, al quale invece si sottopone Ron Perlman, come anche a una serie di deformazioni del corpo. Ugly conservatore, my little brother, penitenziagite! Penitenziagite? Ma io non dico penitenziagite. Hai detto penitenziagite, ti ho sentito. Ma, dove fate, manifestissimo, io no un dolcinito eretico, ma les hommes du penitenzia, ich am e monk, sancti benedicti, sancti benedicti. Io non eretico, j'embrasse Gesù Cristo e renunzia il diavolo. Maestro, che linguaggio usava quell'uomo? Tutti i linguaggi e nessuno. E qual era la parola che pronunciavate? Penitenziagite. Che cosa significa? Significa che senza dubbio quel gobbo un tempo è stato un eretico. Penitenziagite era il motto dei frati dolciniani. I dolciniani? E chi erano, maestro? Erano quelli che credevano nella povertà di Cristo. Come noi francescani? Sì, ma loro sostenevano che tutti dovevano essere poveri e massacravano i ricchi. Vedi, caro Hudson, il passo che separa la tensione mistica dalla violenza della follia è fin troppo breve. Ma allora non può aver ucciso lui il traduttore? No. No, ai dolciniani piacevano i vescovi grassi e i preti ricchi. Non certo uno studioso di Aristotele. Ma non hai torto. Teniamo conto di ogni possibilità. È una fortuna che il terreno sia così umido per la neve. Spesso il terreno è una pergamena sulla quale un criminale lascia involontariamente la sua firma. Per esempio, che cosa leggiamo da queste impronte? Che sono due volte più profonde delle altre, maestro. Bene, Alzo. E quindi cosa concludiamo? Beh, che quell'uomo era assai pesante. Esatto. E perché era tanto pesante? Perché era molto grasso. Oppure perché era appesantito dal fardello di un altro uomo. Teniamo bene a mente i segni lasciati da questo sandalo. Ma le orme si allontanano dalla giara, in questa direzione. Sei un testone, Adso. Tu scarti la possibilità che l'uomo camminasse all'indietro, trascinando il corpo. E di qui le impronte lasciate dalle suole, le quali dovrebbero portarci dove l'erudito traduttore dal greco ha incontrato lo sconosciuto autore della sua morte. Entrando nello scriptorium, ci trovammo in un opificio di sapienza e di pietà e di scienza, in un bastione di fortezza, in un ricettacolo di santi. In ciò, dicevo a me stesso, risiede la grandezza dell'ordine benedettino, nella produzione e riproduzione della conoscenza, nel difendere il tesoro del mondo cristiano e la parola stessa di Dio. Finché queste mura resisteranno, la parola divina sarà custodita. Oh, padre bibliotecario, ora forse ci permetterete di esaminare il lavoro di quei due sfortunati che Dio ha chiamato accanto a sé in maniera tanto tragica. La vostra richiesta è molto insolita. Come le circostanze della loro morte. Guglielmo da Baskerville e Leazzo sono nello scriptorium dell'abbazia facendo le loro indagini, non senza difficoltà, ma ce ne sarà una molto più potente che sta per arrivare. Un somaro che insegna le sacre scritture dei vescovi. Il papa è una volpe e l'abate è una scimmia. Aveva un gran talento per le immagini ridicole. Verba vana, aut risui apte, non loqui. Spero che le mie parole non vi abbiano offeso, frate Guglielmo. Ma ho udito persone che ridevano di cose risibili. Voi francescani, tuttavia, appartenete a un ordine dove la giocondità è vista con indulgenza. Sì, è vero. Il nostro Francesco era ben disposto al riso. Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie. Ma le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell'uomo. Come il peccato. Cristo non rideva mai. Ne siete così sicuro? Non c'è nulla nelle scritture che induca a ritenerlo. Ma neppure nulla che induca a credere il contrario. I santi stessi hanno fatto ricorso alle burle per mettere in ridicolo i nemici della fede. Per esempio, quando i pagani immersero San Mauro nell'acqua bollente, egli si lamentò che l'acqua fosse troppo fredda. Il sultano vi infilò una mano e rimase ustionato. Un santo immerso nell'acqua bollente non si perde in scherzi da bambini. Reprime le urla di dolore e soffre per la verità. Tuttavia, Aristotele dedicò il secondo libro della sua poetica alla commedia come strumento di verità. Avete letto quell'opera? No, naturalmente, sono secoli che è andata perduta. No, non è perduta, non fu mai scritta, poiché la provvidenza non vuole che la futilità venga glorificata. Ma io devo contestare che... Basta! Questa abbazia è in profondo lutto. E tuttavia voi volete intromettervi nel nostro dolore con vane parole. Perdonatemi, venerabile Jorge. Le mie osservazioni erano fuori luogo. Qual era il tavolo del traduttore dal greco? Questo. Vieni, Arzu. Allora, che cosa deduci da questa visita? Che là dentro non è consentito ridere. Hai notato come erano pochi i libri sugli scaffali dello scrittorio? Con tutti quegli scribi, copisti, traduttori, ricercatori, studiosi, dov'è la massa di libri di cui abbisognano per il loro lavoro e per i quali questa abbazia è celebre? Dove sono i libri? Quello che abbiamo appena sentito è il dialogo tra Guglielmo e il venerabile Jorge de Burgos, il il venerabile cieco, che è un omaggio a Jorge Luis Borges, autore tra l'altro della Biblioteca di Babele, che ha ispirato Umberto Eco nella scrittura del nome della rosa. Rientriamo nel film, accadono alcune cose, una di queste è una sorta di attentato un po' goffo alla vita di Guglielmo Diazzo, portata appunto da Salvatore. Entra in scena un altro personaggio che è frate Remigio, che è il celliere, il quale chiede di non accusare Salvatore, in cambio di ciò Guglielmo fa delle richieste, e questa è una di queste richieste, lo porta ad entrare nella biblioteca. Non riuscivo a comprendere perché il mio maestro avesse respinto così rapidamente i miei sospetti sull'eretico Gobbo, né perché fosse tanto urgente la nostra visita alla torre. Presumevo che non potesse resistere alla tentazione di entrare nella biblioteca per vederne i libri. Non c'è serratura, deve esserci un catenaccio dall'altra parte. E come entri? Ovviamente c'è un altro accesso. Ma prima vediamo cosa voleva nascondere l'aiuto bibliotecario con i libri sul tavolo di Venanzio. Minuscoli caratteri greci, scritti da una formica con una zampa tinta di inchiostro. Prosopois ponirois idonen poestai. Sì. Scritto con succo di limone. Sagittario, Sole, Mercurio, Scorpione. Questo codice zodiacale ci dà la direzione, ma per dove? Ehi, chi è? Chi è? Guglielmo e Azzo vengono interrotti nella loro ricerca, vengono depistati dall'aiuto bibliotecario, ovvero da Fratello e Berengario, che poi capiremo avere un ruolo importante. Fratello Berengario ruba, anzi sottrae il testo che stavano provando a leggere Guglielmo e tra l'altro ruba gli occhiali di Guglielmo da Baskerville. Nell'uscire dalla biblioteca i due si dividono, ovvero Guglielmo e Azzo, e Azzo si rifugia nella cucina dove entrerà frate Remigio. Dove sei? Piccolo demonio scatenato. Vieni fuori, porcellona. Io so che sei lì. Ti sento che ci sei. Che ti prende? Hai paura di me? Vieni, bella. Vieni. Tanto ti trovo. Azzo si è rifugiato nella cucina dopo che il fratello Remigio, che cercava evidentemente qualcuno, se n'è andato. Scopriamo chi è questo qualcuno. Qualcuno è una contadinella, una ragazza che vive nella zona limitrofa all'abbazia, che si reca, che si recava nell'abbazia per, diciamo, dei favori sessuali in cambio di cibo. Però questa volta trova Azzo, ovvero un giovane. E qui assistiamo a un momento importante nel film, una scena d'amore, perché questa ragazza seduce Azzo, un passaggio importante, se volete, nella formazione di Azzo, che verrà più volte ripresa nel film. Ma chi era costei che sorgeva davanti a me come l'aurora, bella come la luna, fulgida come il sole e terribile come un esercito spiegato in battaglia? Temevo di essere preda del demonio, il quale sa bene come afferrarti l'anima e illudere il corpo. Poi capii l'abisso, e l'abisso, invocato dall'abisso, e mi resi conto che avevo peccato. Guglielmo da Baskerville, che tutto nota, perché è molto arguto e perspicace, nota anche la presenza di questa ragazza. Maestro, entrate presto, ne ho trovato un altro. Dov'è la tua intelligenza? Hai mai conosciuto qualcuno con un torace tanto grande da contenere un cuore di queste dimensioni? No. Questo è il cuore di un bue. Forse un monaco ha dato il cuore alla ragazza per compensarla dei suoi favori. Ragazza? Quale ragazza? Quella che ho visto sgattaiolare fuori di qui. Doveva essere un monaco molto brutto. Perché brutto? Se fosse stato giovane e bello, è ovvio supporre che lei gli si sarebbe data per niente, non ti sembra? In ogni caso, qualsiasi cosa sia avvenuta in questa cucina non interessa le nostre investigazioni. Il gobbo mi ha convinto che fratello Berengario, l'assistente bibliotecario, è la chiave del nostro enigma. Cosa ha detto? Niente, maestro. Bene. Maestro. Devo dirvi una cosa. Lo so. Volete sentire la mia confessione? Preferirei sentire prima le tue confidenze con un amico. Maestro. Voi siete mai stato innamorato? Innamorato? Parecchie volte. Davvero? Oh, sì, certo. Aristotele, Ovidio, Virgilio, Tommaso d'Aquino. No, io intendevo... Ah? Non è che tu confondi l'amore con la lussuria? Ah, sì? Non lo so. Voglio soltanto il suo bene. Voglio che sia felice. Vorrei salvarla dalla miseria. Ai ai. Perché ai ai? Sei innamorato. È una cosa brutta. Un religioso può creare qualche problema. Maestro, ma Tommaso d'Aquino non esalta l'amore sopra ogni altra virtù? Sì. L'amore di Dio, anzi. L'amore di Dio. E l'amore per una donna? Per una donna. Tommaso d'Aquino ne sapeva molto poco, ma le scritture sono molto chiare. Nei Proverbi è scritto: la donna si impossessa della preziosa anima di un uomo. E nell'Ecclesiaste è scritto: più amara della morte è la donna. Sì, ma voi? Che cosa ne pensate, maestro? Io non ho beneficiato della tua esperienza. Ma, ecco, trovo difficile a convincermi che Dio avrebbe inserito un essere così immondo nella creazione senza almeno dotarlo di qualche virtù. Ah, quanto sarebbe quieta la vita senza l'amore. Tanto sicura, tanto calma, tanto noiosa. Mentre Guglielmo da Baskerville cerca Berengario, che è un po' scomparso, in biblioteca, arrivano altri fratelli francescani per questo incontro, per questo dibattito, che è la cornice storica all'interno del quale si svolge Il nome della rosa, che si ambienta nel 1327, e la disputa è quella tra papato e impero, tra il papato e i delegati del papa e l'ordine francescano, sul tema della ricchezza e della povertà della chiesa. Fratello Berengario? Si sarà nascosto da qualche parte con quel libro e con i miei occhiali. Fratello Berengario! Maestro, guardate, la porta. Oh, fratello Malachia, stavo cercando il vostro assistente, il fratello Berengario. Non è qui? No. Ah, capisco. E sapete dove potrei trovarlo? No. Forse di sopra, nella biblioteca. No. Sarei curioso di vedere la biblioteca da solo. Posso salire? No. E perché no? Una rigida norma dell'abate vieta l'accesso alla biblioteca a tutti, tranne a me stesso e al mio assistente. Capisco. Grazie ugualmente. Forse gli è successo qualche cosa, maestro. Forse lo troveremo nell'acqua. Cosa? La terza tromba, come ha detto Umbertino, ricordate? Il libro dell'Apocalisse. Non è quello il libro che cerchiamo. Il drappello di Francescani, capitanato da Leopoldo Trieste, l'attore che interpreta uno dei Francescani, si confronta con frate Guglielmo, e tra l'altro in questo confronto noi iniziamo ad apprendere quello che è il passato di fratello Guglielmo, che non è soltanto un perspicace signore. Ma l'abate e i superiori sembrano convinti che il maligno stia operando tra queste mura. È così. La sola prova dell'esistenza del diavolo è il nostro desiderio di vederlo all'opera. E se Ubertino avesse ragione e tu ti sbagliassi? Non dimenticare che questo incontro è cruciale per tutti noi. Sospettiamo che il Papa voglia eliminare il nostro ordine. E dichiararci tutti eretici. Sì, e dichiararci tutti eretici. Devo solo parlare con uno dei fratelli e tutta questa storia sarà risolta. Guglielmo, noi riponiamo in te la nostra fiducia. Voglia il Dio che tu non ne abusi. Fratello Guglielmo. Berengario, che tutti cercano, lo trovano in una vasca morto. Ne dobbiamo parlare subito. Sì, certo, subito. E avrò molto da dire. Appena io e Adso avremo esaminato questo cadavere. Le foglie di cedro nell'acqua del bagno sono spesso usate per alleviare un dolore. Era mancino. Sì, sì, frate Berengario era invertito sotto vari aspetti. Ci sono altri frati mancini nell'abbazia? No, che io sappia. Ma chiedi inchiostro. Con la lingua non scriveva, suppongo. Alcune righe di greco? Sì. Scritte da Venanzio. Sono note casuali sul libro che stava leggendo poco prima della morte. Notate come cambia la calligrafia. Da questo punto in poi comincia a stare male. E di questo che ne dite? Una sbavatura di colore azzurro. Sì. Ma di una tonalità particolare di blu, caratteristica del vostro miglior miniaturista, frate Adelmo, che deve aver avuto questa pergamena prima di Venanzio. E perché sappiamo questo? Perché le note di greco di Venanzio sono sovrapposte all'impronta del pollice di Adelmo e non viceversa. Fratello Guglielmo, questa abbazia è avvolta da un orrendo mistero. E tuttavia nelle vostre oscure allusioni non vedo nulla che vi possa gettare alcuna luce. Adso, qualcuno si dava molto da fare per nascondere un grave segreto. La calligrafia è senza dubbio di un mancino. E l'unico mancino della vostra comunità è, o meglio era, fratello Berengario, il vice bibliotecario. Ora, di quale segreto potrebbe essere venuto a conoscenza? Ho la sensazione che voi stiate per dirmelo. Libri proibiti. O libri spiritualmente pericolosi. Tutti qui nell'abbazia conoscevano la passione del bibliotecario per i giovani monaci. E quando il bell'Adelmo espresse il desiderio di leggere uno di questi libri proibiti, Berengario rivelò ad Adelmo dove si trovava il libro desiderato, segnato in cifra su questa pergamena. E questo in cambio di illecite carezze. Basta, frate Guglielmo. Adelmo acconsentì e si sottopose alle colpevoli profferte di Berengario. Ma poi, sconvolto dalla vergogna e dal senso di colpa, vagò disperato nel cimitero, dove incontrò il traduttore greco. Come fate a sapere questo? C'è un testimonio. Il gobbo che vide Adelmo dare quella pergamena a Venanzio. Adelmo poi corre alla piccola torre e si butta dalla finestra. La notte del mio arrivo, mentre Berengario si puniva per il suo peccato carnale, Venanzio, seguendo le istruzioni segnate sulla pergamena, andò a cercare il libro nella biblioteca e lo trovò. Lo portò sul suo tavolo dello scrittorium e cominciò a leggerlo. Dopo aver buttato giù quelle poche misteriose note, è morto con una macchia nera sul dito. L'assistente bibliotecario ha scoperto il corpo e lo ha trascinato nel porcile per allontanare i sospetti da lui. Ma si è lasciato dietro una traccia. Il libro è rimasto sul tavolo del traduttore. La scorsa notte Berengario è tornato nello scrittorium e lo ha letto. Dopodiché, sopraffatto da un qualche dolore, ha tentato di fare un bagno con delle foglie di cedro ed è annegato. Anche lui ha una macchia nera sul dito. Tutti e tre sono morti per un libro che uccide, o per il quale gli uomini uccidono. È per questo che vi chiedo con urgenza di consentirmi l'accesso alla biblioteca. Fratello Guglielmo, il vostro orgoglio vi acceca. Idolatrando la ragione, non riuscite a vedere ciò che è evidente per tutti quanti noi in questa abbazia. È arrivata la delegazione pontificia Bernardo Cui. Grazie, frate Guglielmo. Vi siamo grati per i vostri sforzi. Ma ora vorrei chiedervi di astenervi da ulteriori indagini. Per nostra fortuna c'è qualcuno che giunge con la delegazione pontificia ed è molto esperto delle trame del maligno. Un uomo che sono certo voi conoscete bene. Bernardo Gui della Santa Inquisizione. Bernardo Gui è un personaggio storico, realmente vissuto, un inquisitore, morì nel 1331 nel castello di La Roux, una morte un po' diversa da quella che poi vedremo, assisteremo, ascolteremo. Si capisce che tra Bernardo Gui e Guglielmo da Baskerville, nella finzione romanzesca, c'è stato un conflitto molto importante. Lo sai che sta venendo qui? Lo so, Bernardo Gui. Obertino va trasferito in un luogo sicuro. Sono già state date a disposizione. Chi ci preoccupa ora sei tu, Guglielmo. Ora devi mettere da parte queste indagini decisamente futili. E le tue errate conclusioni. Sì, errate. È la verità. Errate. Io sono nel Guglielmo giusto. Guglielmo è giusto. Guglielmo è sempre nel giusto. Qualsiasi possano essere le conseguenze per lui stesso o per altri, fratello Guglielmo da Baskerville deve sempre dimostrare che ha ragione. Non è stata la tua vanità, il tuo testardo orgoglio intellettuale che ti pose in contrasto con Bernardo un tempo? Non tentare due volte la sorte, Guglielmo. Neppure l'imperatore potrebbe salvarti se ti mettessi contro di lui stavolta. Ubertino da Casale quindi lascia l'abbazia dentro un carro per evitare che venga scoperto da Bernardo Gui, è un francescano che sta sfuggendo alle attenzioni del papato, diciamo così, e dell'inquisizione. Addio, Guglielmo, sei un pazzo e un arrogante, ma ti voglio bene e non cesserò mai di pregare per te. Addio, figliolo caro. Non seguire il cattivo esempio del tuo maestro. Lui è uno che pensa troppo, basandosi sempre sulle sottigliezze della sua mente, anziché confidare nelle intuizioni del suo cuore. Apprendi a mortificare il tuo intelletto. Piangi sulle ferite di nostro Signore. E getta via tutti i tuoi libri. In Ubertino c'è qualcosa che invidia veramente. Ricordate! Temete le ultime trombe, amici miei. Il prossimo cadrà dal cielo. E poi verranno mille e mille scorpioni. Sì, ce lo ricorderemo. Quindi Guglielmo e Azzo continuano la loro ricerca e si introducono nella biblioteca attraverso un'entrata segreta. Lo sapevo. Azzo, lo sapevo. Ti rendi conto che siamo in una delle più grandi biblioteche di tutta la cristianità? Stavo osservando il mio maestro in quell'arca di scienza, in quel tempio della saggezza, e non potevo fare a meno di pensare che nemmeno la città celeste avrebbe mai potuto procurargli estasi più grande della seduzione della conoscenza. E io sapevo quanto grande fosse la seduzione della carne. Come troveremo il libro che stiamo cercando? Con calma. Il Beato di Lieban. E questo è un capolavoro. E questa è la versione con le note di Umberto da Bologna. Ma guarda quanti altri libri. Mio Dio, quali tesori. Ma nessuno dovrebbe essere vietato a consultare liberamente queste opere. Forse sono considerate troppo preziose, troppo fragili. No, non è questo, Azzo. È perché spesso contengono nozioni che insidiano le nostre verità, che potrebbero incoraggiare la gente a dubitare della infallibilità della parola di Dio. Maestro. E il dubbio è nemico della fede. Maestro! Aspettatemi! Io ti sto aspettando. Ma io mi sento camminare. Sono qua. Si sono dunque introdotti in questa torre dell'abbazia che porta alla biblioteca e Azzo sembra perdersi. La biblioteca, la straordinaria ricostruzione di Dante Ferretti, è stata riprodotta seguendo le indicazioni presenti nel libro ed è ispirata a Castel del Monte in Puglia. Sei ancora là? Sì, come facciamo ad uscire? Non senza difficoltà. Semmai ci riusciremo. Capisci, Hudson? È appunto questo il fascino di un labirinto. Ora resta calmo. Apri un libro e leggi ad alta voce. Esci dalla stanza nella quale sei e comincia a girare a sinistra. L'amore non ha origine come un morbo, ma il morbo si muta quando diventa pensiero ossessivo. Il teologo musulmano Ibn Hazm sostiene che la persona malata d'amore non vuole essere guarita e che le sue fantasie amorose provocano una respirazione irregolare e un'accelerazione del polso. Egli identifica la melanconia amorosa con la licantropia, un'affezione che induce un comportamento da lupo in chi ne è colpito. L'apparenza esteriore dell'amante comincia a mutare. Ravvizziscono e il suo viso comincia a coprirsi di pustole e piaghe. Segni simili al morso del cane compaiono sul suo viso. E finisce i suoi giorni aggirandosi per i cimiteri, la notte, come un lupo. Oh, maestro, vedo una lanterna. Non muoverti, resta dove sei. Vedo qualcuno. Ora si è fermato. Che cosa fa? Solleva la lanterna. Quante volte? 3 volte. Allora sono io. Solleva la tua lanterna. Non essere sciocco, figliolo. È solo uno specchio. Oh! Maestro! Salva i libri! Io cerco di salvare voi! Purtroppo, Pito, uno specchio. Dobbiamo essere vicini. Se ho decifrato correttamente le istruzioni del traduttore greco... non mi avrei creduto così sciocco da dare alla parte la pergamena senza farmene una copia, vero? Tenendo la mano sopra l'idolo, premere il primo e il settimo di 4. Con la mano sopra l'idolo, premere il primo e il settimo di 4. Molto bene. Ma quale idolo? È quello che siamo venuti a scoprire. Il primo e il settimo di 4 cosa? Se io avessi sempre la risposta a tutto, insegnerei teologia a Parigi. Allora, Guglielmo da Baskerville e Azzo quindi riescono ad uscire dal labirinto della biblioteca attraverso uno stratagemma, che è quello classico, appunto, del filo di Arianna. Quindi per una volta è Azzo a tirar fuori dai guai Guglielmo da Baskerville, mentre nella cucina adiacente, nella cucina dell'abbazia, accade qualcosa di strano, di misterioso, di cupo, tra Salvatore e la ragazza, è la stessa ragazza che ha posseduto, diciamo così, Azzo, c'è un gallo, c'è un gatto nero, fanno delle pratiche che sembrano un po' magiche. Purtroppo tutto ciò li porterà ad essere smascherati da Bernardo Gui, ovvero dall'inquisitore, che li trova proprio con le mani nel sacco. Mi avevate invitato a indagare sulla presenza del maligno nella vostra abbazia. E io l'ho già trovato. Quante volte ho già visto questi lugubri oggetti per l'adorazione del demonio, il galletto nero e il gatto nero. Ma lei l'ha fatto per mangiare, non per il demonio, dite. Certo, anche Guglielmo da Baskerville ricorderà il processo da lui presieduto, durante il quale una donna confessò di aver avuto rapporti carnali con il demonio sotto forma di un gatto nero. Sono sicuro che non abbiate bisogno di basarvi sulle mie passate esperienze per formulare le vostre conclusioni. No, no davvero. Non davanti a tale irrefutabile evidenza. Una strega, un monaco sedotto, riti satanici. Domani cercheremo di intendere se questi eventi sono connessi con l'ancor più grave mistero che affligge questa abbazia. Rinchiudeteli, affinché tutti possano dormire tranquilli stanotte. Non avete detto niente. Non ho detto niente, poiché non c'era da dire niente. Siete sempre così pronto a dire la verità, quando si tratta di libri e di idee. Lei è già carne bruciata, Hudson. Bernardo Gui ha parlato. Lei è una strega. Ma non è vero, e voi lo sapete. Oh, certo che lo so. Ma so anche che chiunque contesta il verdetto di un inquisitore è lui stesso un eretico. Sembra che voi sappiate molto. Oh, sì. Non volete dirmi niente, come a un amico. Beh, non c'è molto da dire. Anch'io sono stato un inquisitore, ma molto tempo fa, quando l'Inquisizione voleva guidare, non punire. Una volta presiedetti un processo contro un uomo che era solo colpevole di aver tradotto dal greco un libro che contrastava con le sacre scritture. Bernardo Gui lo voleva condannato come eretico. Io lo mandai assolto. E allora Bernardo Gui accusò me di eresia per aver difeso quell'uomo. Mi appellai al Papa. Fui gettato in carcere, torturato. E poi ritrattai. Come andò a finire? L'uomo fu bruciato sul rogo. E io sono ancora vivo. L'Inquisizione parte, le prove sono evidenti e inizia la tortura che Bernardo Gui fa a Salvatore per farlo confessare. Queste torture mi daranno lo stesso dolore che daranno a te. Ma tu puoi porvi fine prima ancora che cominciamo. Apri le porte del tuo cuore, indaga nella profondità della tua anima. Ai Serge, signor bellissimi. Ai Serge, ai Serge. Dimmi allora, chi tra i tuoi confratelli è l'eretico responsabile di questi assassini? Non lo so, magnifico. Non sabe nada. Non sabe. Stupido, mi non ho nothing. All'alba arrivano gli inviati del Papa per discutere con la delegazione francescana la famosa controversia di cui abbiamo fatto precedentemente riferimento sulla povertà di Gesù e quindi sulla povertà della Chiesa. Durante il dibattimento uno dei fratelli, un complice con Guglielmo da Baskerville, gli dice, lo avvisa di aver trovato il famoso libro. Amatissimi fratelli dell'ordine francescano, il nostro Santo Padre, il Papa, ha autorizzato me e questi suoi fedeli servi a parlare in suo nome. La questione non è se Cristo fosse povero. La questione è se la Chiesa debba essere povera. Voi francescani auspicate che il clero rinunci a ciò che possiede, rifiuti le sue ricchezze, che le abbazie abbandonino i loro sacri tesori e distribuiscano le loro fertili terre ai servi. Ho trovato il libro nel mio laboratorio. Un libro in greco. Era nascosto dietro i recipienti delle mie erbe. Non toccarlo. Torna là e non aprire a nessuno. Ti raggiungerò appena potrò. Privando così la nostra Santa Chiesa dei mezzi necessari per combattere gli infedeli e opporsi agli increduli. Voi dimenticate che anche i più grandi monumenti a Nostro Signore sono solo un pallido riflesso della sua grazia e della sua maestà infinita. Anziché strappare alla Chiesa i suoi segni di magnificenza e di potenza, dovremmo cercare di farli ancora più magnifici e potenti per riunire tutti gli uomini intorno al Signore. Quello che succede è una serie di eventi importanti nella trama del film, perché frate Severino, cioè l'erborista, quello che aveva trovato il libro, viene trovato morto nel suo laboratorio, che è stato devastato, messo sotto sopra. Qualcuno cercava qualcosa, evidentemente cercava il libro, che infatti non c'è più. Per questo omicidio Bernardo Gui accusa frate Remigio. Lo accusa dell'omicidio dell'erborista Severino. Intanto Guglielmo da Baskerville va avanti nella sua ricerca. Un elemento importante per lui è il ritrovamento di una pergamena, sostanzialmente di un pezzo di carta, sulla quale sono scritte delle cose che lo aiuteranno nel ritrovamento di questo famoso libro che è stato nascosto. Prendi piacere dai loro difetti. Ti prego, figliolo, sto cercando di pensare. Io pure, maestro, io pure. Tenta di usare la tua testa anziché il cuore e forse faremo qualche progresso. I libri sono più importanti delle persone per voi. Ho detto questo per te. Sembra che non vi importi mai nulla di nessuno. Non potreste mostrare un po' di pietà? Forse è questo il mio modo di sentire pietà. Ma la pietà non la salverà dal fuoco. Vi rammento che siete tutti tenuti in forza del voto di obbedienza e a rischio di essere scomunicati ad aiutare l'inquisitore nella sua dolorosa lotta contro l'eresia e sedere con me in questo tribunale e condividere l'onere del verdetto, io richiederò l'assistenza del magnifico abate e di frate Guglielmo da Baskerville. Sembrerebbe che i colpevoli siano stati trovati, non soltanto gli eretici ma anche i colpevoli degli omicidi. Bernardo Gui va avanti e così costruisce un processo ovviamente fittizio che adesso ascolteremo. Non lo nego. Io ne sono fiero! Nei 12 anni che sono stato qui non ho fatto altro che rimpinzarmi la pancia, soddisfare la mia verga e imporre le decime ai contadini affamati. Ma adesso voi mi avete dato la forza di ricordare ciò a cui un tempo ho creduto con tutto il mio cuore e perciò vi ringrazio. Per averti ricordato che un tempo saccheggiavi e bruciavi la proprietà della Chiesa? Sì! Per restituire alla gente ciò che quelli della tua razza gli avevano sottratto. E non massacrasti molti vescovi e molti preti? Sì. Avrei anche scannato voi tutti se ne avessi avuto modo. Madre Benedetta, ascolta la mia preghiera. So che il mio peccato è molto grande, ma ti supplico, fa che essa non soffra per il mio errore. Madre Benedetta, molti anni fa hai concesso il miracolo di salvare il mio maestro. Non faresti lo stesso per lei? Il mio maestro dice che sono sempre i semplici a pagare per tutti. Ma ti supplico, Madre Santissima, non fare che sia sempre così. Colpevole è questa strega che ha sedotto un monaco e che ha praticato il suo diabolico rituale entro questo luogo santo. Colpevole è Salvatore, che ha confessato il suo passato di eretico e che è stato colto in flagrante delitto con la strega. Colpevole è Remigio da Varagine, il quale, oltre a non pentirsi delle sue passate eresie, tentava la fuga dopo aver assassinato l'erborista Severino. Non è vero! Io non ho mai ucciso l'erborista o qualcun altro in questa abbazia! E pertanto chiedo a voi di confermare la mia sentenza, magnificentissimo abate. Il mio cuore trabocca di dolore, ma non vedo motivo di contestare la giusta sentenza della Santa Inquisizione. E tu, Guglielmo da Baskerville? Sì, è colpevole. Colpevole di avere nella sua giovinezza mal interpretato il messaggio del Vangelo. Ed è colpevole per aver confuso l'amore della povertà con la cieca distruzione della ricchezza e della proprietà. Ma, mio signor abate, egli è innocente dei crimini che hanno macchiato di sangue la vostra abbazia, poiché frate Remigio non sa leggere il greco. E la chiave di tutto questo mistero resta ancora il furto e il possesso di un libro scritto in greco e nascosto da qualche parte nella biblioteca. Dato che il verdetto dell'Inquisizione è stato contestato... San Francesco, proteggi tuoi figli. Siamo obbligati a costringere il prigioniero a confessare il suo delitto. Sia condotto nella cucina e gli siano mostrati gli strumenti. Io confesso tutto ciò che volete, ma non torturatemi. Non potrei superare una notte come quella di Salvatore. Molto bene. Perché li hai uccisi? Perché... non lo so. Perché... Perché sei stato ispirato dal demonio. Sì, è così. Sono stato ispirato dal demonio. Sono stato ispirato dal demonio! Idromelec! Lucifero! Io vi invoco, signori dell'inferno! Alastor! Adjadel! Adigar! Il pastore ha fatto il suo dovere. E ora la pecora infetta deve essere consegnata alle fiamme purificatrici. Voi potrete far bruciare fratello Remigio, Ma con ciò non arresterete i crimini che vengono commessi in questa abbazia. Altri monaci troveranno la morte qui. E anche essi avranno le macchie nere sulle dita e le macchie nere sulla lingua. Sembra che fratello Guglielmo da Baskerville sia ricaduto nell'errore dal quale un tempo si era emendato, avendo tentato di nuovo di proteggere un eretico dalla giusta punizione dell'Inquisizione. Egli mi accompagnerà ad Avignone da Sua Santità Papa Giovanni per la conferma della mia sentenza. Guglielmo da Baskerville, nonostante già in passato si fosse confrontato duramente con Bernardo Gui, nel processo, come abbiamo appena sentito, difende Remigio, se non altro appunto dall'accusa di essere l'autore degli omicidi. Questo gli comporta una ulteriore condanna, l'essere portato ad Avignone dal Papa. Si prepara il rogo e Azzo è molto molto preoccupato sia per il suo maestro sia per la ragazza che è stata accusata di eresia, di essere una strega. Io ragiono. Se solo avessi potuto trovare il libro e dimostrare che Bernardo Gui aveva torto. Ma l'anticristo aveva riportato un'altra vittoria. Nulla pareva ormai sbarrargli la via. La visione, l'interpretazione di Guglielmo, che dà tutti gli elementi del caso, adesso trova un'ulteriore verifica, perché nelle laudi del mattino viene trovato morto il bibliotecario, un altro fratello, e viene trovato morto con le dita nere e la lingua nera. E quindi questo scatena tutto quello che è il finale del film. La lingua nera! Le dita sono nere come il carbone, come ha predetto frate Guglielmo. Cazzo! È fratello Malachia, padre! Malachia? Sì, padre, sì! Oh Dio! Malachia, no! Non avrà mai fine. Malachia! Bernardo, Guglielmo da Baskerville aveva ragione dicendo che qualcun altro... Certo, lo sapeva. Come lo avrei saputo io se fossi stato l'assassino? Trovate Guglielmo da Baskerville. Ma non sappiamo ancora come aprire lo specchio. Diceva di premere il primo e il settimo dei quattro. Forse si riferiva alla parola quattro. E così, Azzo. Quattro. Così è scritto nell'incisione sopra lo specchio. Ma dovevamo premere sopra l'idolo. Idolum in latino. Eidolon in greco. Immagine. Il nostro riflesso dello specchio. Da questa parte, maestro. No, da questa parte. Bernardo Gui, e cosa può fare se non accusare Guglielmo da Baskerville di essere lui l'autore degli omicidi? Quindi viene cercato da Bernardo Gui nell'abbazia, ma Guglielmo, insieme ad Azzo, finalmente riesce a intrufolarsi in questo luogo segreto, decifrando la pergamena e scoprendo qual è il passaggio segreto, e arriva finalmente al confronto con chi? Con il venerabile, cieco che conserva il libro di Aristotele sulla Commedia. Ti stavo aspettando già da diversi giorni, fratello Guglielmo. Ma dovresti aver volato per essere arrivato qui prima di noi. Hai scoperto parecchie cose dalla tua venuta in questa abbazia, ma il percorso breve attraverso il labirinto ti è ancora ignoto. E adesso che cos'è che vuoi? Voglio vedere quel libro greco che secondo voi non è stato mai scritto. Un libro dedicato interamente alla Commedia. Cosa che voi odiate, così come odiate il riso. Voglio vedere quello, che probabilmente è l'unica copia rimasta nel secondo libro della Poetica di Aristotele. Ah, Guglielmo, che splendido bibliotecario saresti stato. Ecco, la tua ben meritata ricompensa. Leggilo pure. Scopri i suoi segreti. Hai vinto, Guglielmo. Discuteremo adesso del modo in cui la commedia stimola il piacere del ridicolo usando persone volgari e traendo diletto dai loro difetti. Continua, Guglielmo, leggi, leggi. Maestro, vi prego, dobbiamo fare in fretta. Se la luce è troppo bassa per te, dallo a questo ragazzo, lui ci riuscirà. Non consentirò che il mio fedele allievo tocchi le pagine avvelenate di questo libro senza la protezione del guanto che ora sto portando. La lanterna! La porta! Presto, prima che ci chiuda dentro! Spingi! Venerabile fratello, ci sono altri libri che parlano della commedia. Perché mai questo ti terrorizza tanto? Perché fu scritto da Aristotele. Vieni di qua. Questa è la scena topica del film, mentre da una parte viene allestito il rogo per dare alle fiamme gli eretici, alla base dell'abbazia, all'apice dell'abbazia, nella biblioteca segreta che sta prendendo fuoco, c'è questo confronto drammatico tra il venerabile e Guglielmo proprio sul tema del riso. Riso affrontato, studiato, raccontato da Aristotele in questo libro che non deve essere letto. Ma che cosa c'è di tanto terribile nel riso? Il riso uccide la paura e senza la paura non ci può essere la fede. Senza la paura del demonio non c'è più necessità del timor di Dio. Però non puoi eliminare il riso eliminando questo libro. No. Certamente, il riso resta lo sfogo dell'uomo volgare. Ma cosa succederebbe se per colpa di questo libro uomini saggi andassero affermando che è possibile ridere di tutto? Possiamo ridere di Dio? Il mondo precipiterebbe nel caos. Perciò io sigillo quello che non doveva essere detto nella tomba che ora divento. Sotto l'arco! Serie di eventi tragici, drammatici, la biblioteca prende fuoco, il venerabile muore nelle fiamme, nella difesa estrema di questo suo segreto, Azzo riesce a fuggire dal labirinto della biblioteca e fortunatamente, lo scopriamo nel finale del film, anche Guglielmo da Baskerville, i due si abbracceranno come fossero padre e figlio. Guglielmo da Baskerville riesce tra l'altro a sottrarre 3-4 libri dalla furia delle fiamme. Nel mentre il rogo degli eretici non è andato a buon fine, ovvero Salvatore viene dato alle fiamme, come anche frate Remigio, ma non la ragazza. Mentre veniva eseguita la sentenza, i fratelli scoprono che la biblioteca sta prendendo fuoco e quindi tutti recano sulle torri per sedare l'incendio. Questo lascia così Bernardo Gui con pochi soldati a difesa del rogo, il rogo che viene però affrontato dai contadini e dai familiari della ragazza, che si apprestano, si fanno sempre più vicini in maniera pericolosa e soprattutto la traggono in salvo. Traggono in salvo cacciando Bernardo Gui e facendogli fare una brutta fine. La fine che fa Bernardo Gui nel film non è quella storica, perché cadrà in un precipizio. Siamo alla fine del film. Tutto è risolto, tutto è chiaro, Guglielmo da Baskerville ha risolto appunto il suo caso e si allontana con Azzo e con alcuni suoi libri in una alba gelida e fredda. Mentre si allontanano, Azzo viene intercettato dalla ragazza e c'è questo finale molto romanzato dal punto di vista cinematografico anche. I due si guardano, lei gli bacia la mano, vorrebbe andare con lui, ma lui tira dritto. La voce off ci racconterà per quanto tempo ha pensato a questo incontro, a questa ragazza. Ripeto ancora oggi a me stesso che la mia scelta fu buona e feci bene a seguire il mio maestro. Quando infine ci separammo, egli mi fece dono delle sue lenti. Poi mi abbracciò con la tenerezza di un padre e mi disse: tu hai vissuto in questi giorni, mio povero ragazzo, una serie di avvenimenti in cui ogni retta regola sembrava essersi sciolta. Ma l'anticristo può nascere dalla stessa pietà, dall'eccessivo amor di Dio o della verità, come l'eretico nasce dal santo e l'indemoniato dal veggente. E la verità si manifesta a tratti anche negli errori del mondo, così che dobbiamo decifrarne i segni, anche là dove ci appaiono oscuri e intessuti di una volontà del tutto intesa al male. Non lo vedi più, né so che cosa sia accaduto di lui. Ma prego sempre che Dio abbia accolto l'anima sua e gli abbia perdonato i molti atti d'orgoglio che la sua fierezza intellettuale gli aveva fatto commettere. Ma ora che sono molto, molto vecchio, mi rendo conto che di tutti i volti che dal passato mi tornano alla mente, più chiaro di tutti vedo quello della fanciulla che ha visitato tante volte i miei sogni di adulto e di vegliardo, eppure dell'unico amore terreno della mia vita non avevo saputo né seppi mai il nome. Vi abbiamo raccontato questo Il nome della rosa, un film uscito nel 1987, un film che è ben impresso nell'immaginario dello spettatore dell'epoca, ma anche di oggi. Il film ebbe tra l'altro fu messo nel palinsesto della Rai e fece un record di ascolti. Per molti anni fu il record degli ascolti per un film nella radio, televisione, in Rai sostanzialmente. Il romanzo del nome della rosa è stato tradotto in più di 40 paesi, venduto in 50 milioni di copie, Eco ne farà altri 6, ma questo rimane forse il suo più famoso romanzo, un romanzo che intreccia il romanzo storico, perché è stato scritto sul modello dei Promessi Sposi di Manzoni, cioè vicende e personaggi inventati in un contesto storico reale, che è quello dell'Italia medievale, della contesa papato impero, però è anche per certi versi un romanzo gotico, 7-800esco per quanto riguarda l'atmosfera soprattutto, ma è soprattutto anche un romanzo giallo, abbiamo raccontato dei riferimenti a Doyle, ed è anche un romanzo di formazione dentro il quale ci sono molte dispute filosofiche e teologiche. E tutto questo che poteva sembrare anche dal punto di vista editoriale un'impresa folle, un romanzo di 500 pagine così arguto, così colto, così postmoderno nei riferimenti e nelle citazioni, invece è un autentico bestseller che ha portato Umberto Eco alla fama internazionale. E questo film di Jean-Jacques Annaud, che è un regista che ama cercare di fare Hollywood in Europa, cioè una certa grandezza e magnificenza cinematografica, comunque un regista di mestiere, un artigiano, riesce comunque, grazie a Tonino Delli Colli, grazie ai nostri italiani anche, a Dante Ferretti e alla costumista Gabriella Pescucci, a fare un film che in qualche modo è rimasto nell'immaginario collettivo. Bene, io sono Dario Zonta, vi ringrazio, questo è il Cinema alla Radio di Hollywood Party, e Miriam Mauti l'ha curato insieme alle nostre curatrici Maddalena Nisci e Francesca Levi, e io vi rimando alla trasmissione quotidiana di Hollywood Party, come sempre dal lunedì al venerdì alle ore 19. Buonasera.